Va osservato, catturato, integrato nella società. È troppo libero. Va osservato, catturato, integrato nella società. È troppo libero. Perché non siete crisi? Perché non muore mai? Perché non guardo Sky? Mi gusta il bingo bongo. Io te lo propongo. Bongo, bongo, bongo, bongo, bongo, bongo. Non ha profilo Facebook, non guarda le partite, non sente le stronzate, problemi non ne ha. Forse è troppo libero, forse è troppo libero, forse è troppo libero e non lo sa. Integrato nella società, è troppo libero. Va osservato, catturato, integrato nella società, è troppo libero.